finta che non ha, cosa devo dire? Heidi! Vieni a prenderti, mamma, ciao! Buonasera! Carino! Buonasera! Mi intrighi! Ma guarda la musica, dai! È fame! Dai! È fame! Sta mossa! Mossa! Non è venuta, bien? Ancora! Mossa! Possiamo rilassare 2 secondi? Fantastico, fantastico, fantastico, entregheros.